Essere e benessere di Nicoletta Carbone. È capitato anche a voi di non trovare le parole per dirlo, di avere paura di dare la risposta nei toni, nei modi, nei tempi sbagliati? Ne vorrei parlare oggi insieme a voi perché credo che il nostro benessere emotivo sia anche il frutto di verità dette e di verità taciute. Ci accompagna nella puntata di oggi la dottoressa Manuela Trinci, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Buongiorno dottoressa Trinci, bentornata. Buongiorno e bentrovati tutti voi. Il tema della verità ai bambini non è scontato, semplice, come si potrebbe pensare. Molte volte gli adulti ritengono che una buona bugia sia meglio di una dolorosa verità. Poi ci sono le verità che scottano, quelle per le quali si pensa che i bambini non siano ancora pronti. Diventa quindi difficile scegliere se dire o non dire, o dire delle mezze verità. Potrebbe anche essere questa magari una soluzione, raccontare la verità però omettendo alcuni dettagli. Noi abbiamo fatto un piccolo sondaggio per capire cosa ne pensa la gente riguardo a questo tema. La verità. Dipende che verità, però è delicata la domanda. È chiaro che secondo me bisogna parlarli molto apertamente, intanto parlare con i bambini, che è la cosa fondamentale. Secondo me un dialogo aperto e sincero con i bambini non nuoce, secondo me, assolutamente. Non saprei rispondere a questa domanda, però penso che se anche non gliela spieghi a quell'età, penso che piano piano ci arrivano da soli. Almeno per me è stato così. Sì, secondo me sempre. Secondo me, però, ognuno ha le sue idee, parole molto chiare, proprio semplici, ma spiegate. Ho provato con i miei figli, l'ho chiarita, gliel'ho fatto capire. Sempre molto diretto e molto semplice. Dottoressa Trinci, non tutti siamo genitori, ma tutti siamo figli. E ci sono indubbiamente delle verità che ci sono state taciute, altre raccontate, che ci hanno un po' cambiato. Avremmo magari preferito in alcuni casi sapere, in altri invece essere risparmiati. Ciascuno di noi ha sicuramente una storia da raccontare, questa è l'occasione per farlo. 800 24 00 24. Dottoressa Trinci. Ma guardi, io credo questo, mi hanno molto colpito le risposte della strada, no? Domanda delicata, non saprei cosa rispondere, e davvero la necessità, come al solito per il genitore che si trova di fronte ad argomenti spinosi, di utilizzare un metro difficilissimo da mettere in funzione, perché da un lato c'è l'idea oggigiorno, e questo forse andrebbe davvero approfondito, che la natura umana, quindi che il bambino, non sia attrezzato per ascoltare delle verità, che poi sono le verità che riguardano la vita, cioè si nasce, si muore, spesso, ecco, dire la verità a un bambino, credo che si voglia con questo rassicurare, come ha detto lei all'inizio, nasce un fratellino, è morto qualcuno, dall'animale all'amico, al nonno, a qualche familiare, oppure la separazione dei genitori, una malattia, una difficoltà di famiglia, che può essere una difficoltà economica, una difficoltà nei rapporti, per esempio, interessantissimo, una cosa che io vedo spesso in ambulatorio, le difficoltà interfamiliari, cioè fra nonni, suocera, nuora, cognati, no? Queste big family, sì, che in qualche modo poi i bambini si trovano dentro ai conflitti e non capiscono niente. Allora, dire, non dire, credo che sia veramente la questione che i genitori si trovano di fronte, perché appunto hanno un'idea oggi di bambini che io sono solita definirli esenti rischi, bambini da proteggere in tutte le modalità possibili e immaginabili. Ma questo poi in che cosa si ridefinisce? In una mancanza continua dei percorsi normali dell'autonomia di un bambino. Oggi i bambini stazionano di più di un tempo nel lettone, oggi i bambini hanno per più lungo tempo il pannolone, oggi i bambini sono sempre comunque protetti dai genitori di fronte alle scuole, di fronte alle difficoltà. Ecco, allora che siamo di fronte poi a dei bambini più fragili, dei bambini che, diciamo così, avevamo davanti anche semplicemente, noi dico questo come psicologi, come tecnici, una decina di anni fa. Allora, ai genitori, come avete raccontato, prendendo spunto appunto dalla dottoressa Trinci, ai vostri figli, come si muore, come si nasce e anche a volte come ci si lascia? Chi invece non è genitore potrebbe raccontare come queste verità gli sono state dette quando era bambino: la morte di un nonno, dell'animale domestico, di un parente, la nascita di un fratellino, di una sorellina, la fine di un amore, di un'amicizia, la difficoltà economica. Intanto, dottoressa Trinci, che aspettiamo le chiamate dei nostri ascoltatori all'800 24 00 24, voglio ricordare che lei sarà coinvolta anche in una così in una sorta di selezione, perché alla storia che raccontata che più ci piacerà faremo recapitare a casa, parlare con Pinocchio, come comunicare con i bambini perché crescano sereni. Ma la verità li rende sempre sereni, dottoressa Trinci? No, questo no, ma d'altra parte si può mica vivere come la famiglia del Mulino Bianco, no? Credo che sia interesse di tutti noi attrezzarsi anche alle difficoltà e che sia un compito dei genitori molto importante e fondamentale. Si fa fatica, perché oggi la vita è forse più difficile, no? E poi quindi ci pone di fronte a dei dilemmi, a dei problemi ai quali noi adulti intanto bisogna vedere se siamo attrezzati noi e poi come aiutare i nostri figli ad attrezzarsi a vivere. Il problema, per esempio, che lei poneva della morte, di come raccontare la morte ai bambini, è fondamentale. Certo, uno, perché voglio dire, non si può far crescere un bambino nell'illusione fino a che poi la vita lo metterà di fronte in maniera, perché non è preparato, quindi sarà una maniera scioccante di fronte al fatto che non si può comandare tutto. Quindi ecco, per esempio, la morte è una di quelle cose che capitano senza che ci sia alcuna possibilità di influirci. Allora, in questo senso qui io credo che sia un aiutarli a crescere e vi lancio una possibilità. Tanti argomenti, riprendiamo appunto la morte, sono molto difficili da affrontare per i genitori, soprattutto se c'è una carica emotiva forte, se si è perso qualcuno che si amava, siamo anche noi coinvolti dentro a questo lutto e il bambino quindi può non sentirsi sufficientemente sostenuto, sufficientemente protetto in questo processo, in questo percorso. Allora possiamo ricorrere a dei mediatori gentili. Io credo molto, per esempio, all'importanza dei libri per i bambini. Ci sono molti libri che parlano della morte, del morire. Abbiamo per esempio Dialoghi sulla morte dell'Anatra, un libro edito dalla EO che è straordinario perché proprio mette questo dialogo di un'anatra che sta morendo con la morte e a un certo punto la morte dice quello che c'è dopo, non lo sa nessuno. Ecco, quindi con i bambini si può condividere anche questo senso di impotenza, forse protetto e mediato da un libro, da un racconto, da una storia che in tante circostanze salvano proprio la vita, direi. Che cosa fai qui? Faccio il dottore per le donne. Cioè, che gli fai? E faccio nascere i loro bambini. Li fai nascere? Quando una donna ha tenuto il bambino dentro di sé per tanti giorni, io vado da lei e l'aiuto a tirarlo fuori. Non è vero, dottore, mi prendi in giro. Lo sanno tutti che è la cicogna a portare i bambini. E chi te l'ha detto? Papino. Ok, dunque, la cicogna mette il bambino all'interno della mamma. Ok, arrivo io e l'aiuto a venire fuori. No, non sai niente. La cicogna porta il bambino dentro l'ospedale e poi lo lascia in un passeggino. Dottoressa Trinci, molta dell'educazione sessuale con cui siamo diventati grandi era proprio caratterizzata da queste storie, no? Penso alla cicogna, ai porta dei bambini, ai cavoli sotto i quali molti di noi pensavano di essere nati. Ma dove sta il problema di fronte a queste bugie innocenti e anche un po' divertenti? Perché il cavolo e la cicogna, insomma, dicono la loro. Certo, i bambini lo sanno, no, lo sanno. Però guardi, anche qui la differenza e la cosa è sottile, perché noi si viene appunto da generazioni nati sotto il cavolo, poi c'è stata la tecnicizzazione, il semino che il babbo mette nella pancia della mamma. Ecco, quello che secondo me un'educazione sessuale del bambino dovrebbe anche sollecitare è il linguaggio dell'amore, cioè far capire come un bambino nasce dall'amore. E quindi per esempio a un bambino piccolo si può raccontare che c'ha i brividini nella pelle, no? Che cosa, quali altri, come si potrebbero definire, quali altri correlati possono esserci intorno all'amore. Questo a favore di un'educazione un po' meccanica che abbiamo subito negli anni 80, negli anni in cui bisognava farsi vedere nudi dai figli, non tenendo conto di difficoltà che un genitore poteva vivere. E anche in questo senso mi preme molto che i genitori pensino, quando raccontano ai loro bambini come si nasce, sì, anche qual è il percorso che ogni bambino ha dentro di sé. Per esempio, molti bambini quando sono piccoli, attorno ai due anni e mezzo, tre, che è quello che in molti lo definiamo il periodo filosofico del bambino, il periodo appunto in cui un bambino si interroga su come si nasce, su come si morte, sì, e come si muore. Quindi faccio per dire, è chiaro che un bambino c'ha un periodo in cui pensa, è così interessato alla bocca che per esempio un bambino si concepisca baciandosi, mangiando. Io ricordo una bambina che mi disse si mangia e poi gonfia la pancia, ha una sua logica. Io vorrei sentire come questo tema viene affrontato all'asilo. E in linea con noi abbiamo Marco Drago, che con Gaetano K conduce Chiedo Asilo. Va in onda, lo sapete, tutti i pomeriggi alle 16.45, da un asilo surreale, dove la realtà appunto viene guardata attraverso la lente di rimpicciolimento dei bambini. Assieme a loro, ospite fisso del programma è il bambino Alberto. Ciao intanto Drago. Ciao, buongiorno a tutti. Alberto, come se la cava con cavoli e cicogni? È curioso, sembra interessato e disinteressato all'argomento? Vi aiuta soprattutto o vi mette un po' in difficoltà? No, diciamo che è ancora in una fase in cui è disinteressato e ogni volta che proviamo ad accennare a cavoli e cicogni lui prende le cose letteralmente, va dietro alla storia e non riesce a capire assolutamente quello che vogliamo spiegargli. Quindi per adesso il problema non si pone, anzi magari sarebbe bene, oggi devo ricordarmi di magari fare un accenno di educazione sessuale anche al bambino Alberto, se no cresce ignorante come siamo cresciuti noi della nostra generazione. Ora la signorina O'Hara vi parlerà di una cosa molto importante, perciò voglio che voi facciate attenzione a quello che vi deve dire, capito? Ricorda, niente paura. Grazie. Sì? I maschi hanno il pene, le femmine la vagina. Bene, gli hai insegnato le basi. Ma senti, ma quando invece bambino eri tu? Come te l'hanno raccontato e soprattutto chi te l'ha raccontato? Io sai che non me lo ricordo, ci ho pensato un po' stamattina e non me lo ricordo. Io credo che sia andata così, che gli amici più grandi mi hanno spiegato tutto nei minimi particolari, nel modo terribile in cui può riuscire un ragazzino maschio a spiegare certe cose a un altro bambino. E poi però mi ricordo benissimo che mia madre era una grandissima sostenitrice dell'educazione sessuale nelle scuole, che all'epoca non si faceva, non so se si faccia adesso, però c'era negli anni 70. E lei protestava sempre che ci sarebbe voluto. E poi una volta hanno cominciato a fare dei programmi televisivi alla RAI di educazione sessuale al pomeriggio per i bambini. Sì. Lei era entusiasta, me l'ha fatti vedere, mi faceva vedere questo programma che poi tra l'altro hanno sospeso dopo due o tre puntate perché era una RAI molto clericale all'epoca, molto, come dire, anche forse bigotta. E quindi dopo tre puntate c'erano state le proteste, credo, di altri genitori che avevano fatto sospendere il programma. Però io mi ricordo di non aver capito assolutamente niente di quello che veniva spiegato nel programma e soprattutto mi chiedevo perché mia madre, invece di affidarsi a un programma o di aspettare la scuola, non mi spiegava lei le cose direttamente, senza aspettare che lo facesse un altro, no? E vabbè, invece è andata così, nel senso che io sapevo già tutto per via degli amici, poi ho guardato il programma in TV e mi sono confuso. Insomma. E ti sei confuso, però sì. Adesso le idee ce le hai più chiare. Immagino di sì. Allora, immagino. Allora intanto noi ti seguiremo, perché se oggi chiedi... Oggi faremo sicuramente un accenno, perché avete fatto venire in mente non si può fare andare avanti così con questa ignoranza dal punto di vista dell'educazione sessuale. Quindi grazie per il suggerimento. Grazie a te per essere intervenuto. Ciao, un abbraccio. Ciao. Veronica, buongiorno da Milano. Ciao Nicoletta, sono Veronica. La mamma blogger. Ma certo, la nostra mamma blogger. Tu come approfitto per salutare la dottoressa Trinci, che è un bel pezzo che non sentivo, per cui visto che oggi c'è anche lei in trasmissione la saluto volentieri. Veronica, so che tu dici la verità. Almeno nei complimenti per la dottoressa Trinci. Come te la sei cavata con i tuoi bambini? Allora, dunque, ci sono vari temi. Vabbè, ok, quello dell'educazione sessuale è anche, secondo me, relativo al discorso età del bambino. Mi è successo un episodio molto divertente ultimamente con la bambina. Siccome io, piuttosto che dire una bugia o ometto, ecco, pure cerco di dire la verità in modo semplice ma senza dare troppo peso alle cose, mia figlia mi ha chiesto, a 3 anni e mezzo, mamma, da dove escono i bambini? Siccome io ho fatto 2 parti cesarei, lei ha visto la cicatrice sulla mia pancia, sì. Per cui io tante volte ho detto, guarda, tu sei uscita da qui, eccetera eccetera. Però l'altro giorno, non so perché, in un afflato di spontaneità ho spiegato che i posti possono essere 2, sì. E la cosa è caduta nel silenzio. Dopo un paio di giorni stiamo andando a scuola e la bambina si mette quasi a piangere e mi dice, ma è così piccola, potrebbe farmi molto male, lei a me. Quindi rendetevi conto, ho detto, oddio, ho fatto un danno, ho detto, guarda che dottoressa poi si cresce, no? Vi rendete conto? Mi sono sentita quasi in colpa di essere stata sincera. Dottoressa Trinci. No, va benissimo. Io credo che i bambini appunto debbano sapere le cose come stanno, ma come diceva Veronica, anch'io approfitto per salutarla con affetto, con le parole che siano adatte a loro. Poi che una bambina piccola si preoccupi, no? Io ricordo un bambino che pensava che i bambini nascessero dal sederino, che mi disse, ma il buchino è così piccolo, come farà a passarci? Ecco, mi sembra una domanda, no, degna di un filosofo che prende le misure, che si interroga, ma questo è un percorso, guardate, fondamentale nella vita di un bambino. Non possiamo toglierglielo. Non possiamo togliere questo, se no noi facciamo dei bambini esenti rischio, dei bambini anche malati di immaginazione. Perché poi su queste loro difficoltà, su questo buco che è piccino, grande, ci costruiscono cane, chissà cosa ci possono costruire. Cappuccetto Rosso nasce da delle fantasie immaginative dei bambini, nasce dall'idea che si taglia la pancia, prof, e il bambino viene fuori. Nasce anche un'altra idea divertente dei bambini, che si possa nascere dall'ombelico, capito? Quindi le teorie infantili sulla nascita sono tantissime e noi le dobbiamo conoscere e divertirci insieme a loro. Questa è, credo, un qualcosa che aiuta tutte e due a costruire. C'è una frase di Mafalda bellissima, no? Rispetto a dire le verità ai bambini in maniera cruda, che hanno poi a che fare con Befana, Babbo Natale, eccetera eccetera. Mafalda a un certo punto dice, seduta sulle ginocchia della nonna, che la nonna dice a Mafalda, ma insomma, senti, se tu vuoi credere a tutte queste cose, credici, ci sarà tanto poi la vita che penserà a disilluderti. E Mafalda risponde dicendo, ma chi si crede d'essere la vita per fare le stronciate a bambini? Essere e benessere. Dire, non dire, come dire. Eccoci di nuovo insieme. Le verità che ci hanno fatto diventare grandi, quelle che ci avrebbero aiutato e non ci sono state raccontate, le verità che ci hanno spaventato e le verità di cui facciamo magari fatica a parlare con i nostri figli. Intanto abbiamo la dottoressa Trinci che è in linea con noi e questa è una garanzia, e in linea con noi Emanuele che ci chiama da Milano. Buongiorno Emanuele, benvenuto. Buongiorno a tutti, niente, un piccolo intervento, sono papà di 2 bellissimi figli, uno di 4 anni e mezzo, uno di 1 anno e mezzo, quindi ancora un po' presto per l'argomento. Ovviamente quello di 4 anni e mezzo le domande le pone e sono di una convinzione, assolutamente sempre la verità. Ovviamente, come si diceva prima, favole, racconti, Babbo Natale, le cicogne sono tutte formule comunque per raccontare più o meno una verità. E quindi ognuno di noi poi, confrontandosi con i propri piccoli, deve trovare il modo giusto, perché poi ogni piccolo ha il suo carattere, ha i suoi tempi, tempi e tutto il resto, insomma. E conta anche molto in questo, dottoressa Trinci, le verità che sono state raccontate a noi, il modo in cui ci hanno informato, perché noi ci portiamo, ogni genitore si porta dietro molto di sé come figlio. Andiamo a Luca dalla provincia di Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. La mia esperienza con i miei bambini, diciamo, è stata questa. Loro ogni tanto mi hanno chiesto della morte, se tutti muoiono, se anche io morirò. E niente, avevo dato delle risposte a loro che vedevano, diciamo, li lasciava ancora per stressi. E mi è capitato invece qualche giorno fa di portarli al cinema e andare a vedere Il Re Leone. Sì. E niente, in una delle scene c'era il Re Leone che parlava col figlio e gli spiegava che tutti i Re Leoni che non c'erano più comunque rimanevano in cielo e dal cielo guardavano e consigliavano tutti coloro che rimanevano sulla terra, quindi Il film l'ha aiutata, la dottoressa Trinci parlava infatti di libri, intermediari e gentili, forse molti di noi l'hanno utilizzato senza sapere, ma anche forse senza saperlo. Dottoressa Trinci, questa è dei libri, del film, tante volte riescono a farci trovare le parole che da soli non riusciremo a trovare. È verissimo, io credo che sia proprio quella la formula che lei dice, trovare le parole per dirlo. Ecco, perché magari c'è appunto, come mi sembra dalla voce, no, del signore che parlava ora, che ci sia anche una voce un pochino di sofferenza, perché probabilmente sono state esperienze toccanti, come diceva ancora lei prima, Nicoletta, ogni genitore è costruito dal genitore che ha avuto, dai modelli che ha avuto, quindi ecco, nei momenti di perdite tutto questo riaffiora in una maniera molto molto forte, per cui è tanto più necessario farsi dar mano, appunto, un libro letto insieme al bambino. Non si deve aver paura di una lacrima o di un singhiozzo, no? Che certe volte ci può squassare. Il bambino questo, se sente che comunque c'è il genitore che è genitore, che quindi è capace di sentire le sue emozioni, di dare dei nomi alle sue emozioni e di aiutare il bambino a sua volta a dare dei nomi a delle emozioni, perché è bellissimo quello che raccontava il signore quando diceva appunto che il bambino gli chiede anche tu morirai, perché è questa la sensazione di precarietà con la quale convivono i bambini. Alessandro ci chiama da Napoli, buongiorno. Buongiorno, senta, no, più che altro un'esperienza mia personale in famiglia. Ma riguardo, tutti riguardo noi parliamo proprio delle nostre esperienze personali, certo, alla fine. Riguardo proprio a quello che il sesso, diciamo anche le paure e tutto. Io, per esempio, con i miei figli, uno di 10 e l'altro di 5, più quello di 10, più che altro, cerco di parlare di certe realtà, che ricordo che quando ero piccolo purtroppo non mi sono state date notizie, sì. Anzi, mi hanno deformato nel tempo, perché le cose le ho sapute dagli altri, soprattutto riguardo il sesso. Invece, più che deformare i miei figli, io sto cercando di formare i miei figli attraverso informazioni che grazie a Dio, diciamo che io, diciamo che sono un credente non cattolico, non voglio dire la mia credo, questa, Io cerco di formare i miei figli attraverso quello che è l'insegnamento della parola di Dio, quindi anche un libro dove ci sono delle informazioni dove posso raccogliere non solo per me personalmente, ma quindi, soprattutto per i miei figli, e vedo che funziona anche. Alessandro, quindi dottoressa Trinci, molti di noi non hanno le parole perché non hanno avuto dei genitori che li hanno accompagnato, che li hanno somministrato, è la verità, in dosi omeopatiche o più o meno, perché insomma ci si vaccina anche ad affrontare la vita. Io ho chiamato qua una mia amica, una mia collega, ma siamo diventate amiche nel corso della trasmissione, qualcuno di voi l'ha già ascoltata in linea, perché volevo chiederle un aiuto. Intanto ciao Laura, grazie, vedi che le amiche. Ciao Nicoletta, poi, grazie a te. Perché volevo affrontare un tema abbastanza difficile. La mamma si ammala, il papà si ammala, ci sono dei figli piccoli, che cosa si dice? Laura ha avuto un tumore al seno, è stata operata, è tutto a posto, la soluzione è una storia a lieto fine, come per fortuna no? I casi sono sempre più numerosi di persone che superano questo problema, ma c'è un bambino e Laura ha parlato con questo bambino, ha dovuto trovare, come dicevamo, quelle parole. Laura, intanto grazie. Niente, figurati, grazie a te. Allora sì, non è stato facile. Quando è successo il tutto, ormai sono passati 2 anni e mezzo, il mio bimbo aveva 3 anni e mezzo, quindi comunque un'età non facile, e io anche ero da poco mamma, quindi appunto trovare le parole e le parole adatte, come ha detto prima la dottoressa Trinci, non è stato facile, però io sono partita da questo presupposto che poi cerco di applicare sempre nella mia esperienza di mamma, che è di quello di non dimenticarsi mai che i bambini sono innanzitutto delle persone, delle persone molto intelligenti e molto sensibili, e molto spesso più di noi. E quindi ho scelto sempre la strada della verità, Poi, certo, la nostra bravura di genitori sta nel trovare le parole e nel trasferire la verità nel modo giusto, senza essere troppo brutali, perché comunque... Hai continuato a dire la verità perché il percorso è stato lungo, ma c'è stata una domanda che ti ha fatto il tuo bambino che ti ha messo un po' in difficoltà? O una domanda che ti ha fatto capire che il modo in cui tu gli avevi raccontato la verità era stato il modo giusto? Allora, le domande sono state tante, il percorso è stato lungo, nel senso che comunque in questi 2 anni e mezzo diciamo che abbiamo messo il punto qualche mese fa, perché io sono stata operata diverse volte, in un primo momento per debellare la malattia, che fortunatamente è stata debellata velocemente, però poi ci sono state tutte le terapie, e quindi in queste fasi, in tutti questi 2 anni, lui mi ha seguito sempre chiedendomi, questo è quello che mi fa rispondere alla tua domanda, il fatto che comunque un bambino ti chieda, evidentemente ha superato in qualche modo il problema o non l'ha vissuto come tale, no? Cioè, di fronte a delle domande dirette, lampanti, uno si rende conto che ti sta seguendo, no? Sì. E di domande me ne ha fatte tante, c'è stata in un primo momento tutta la fase che per me è stata più pesante, in realtà lui non l'ha vissuta come tale. I capelli che cadono, ad esempio. Esatto, esattamente, perché lì grazie soprattutto in questo caso all'aiuto di mio marito c'è stato praticamente un taglio generale in famiglia, quindi tutti rasati. Esatto, prima i 2 maschietti e poi è toccata la mamma, che comunque avrebbe dovuto poi perdere i capelli, però lui non l'ha vissuta, Leonardo, mio figlio, non l'ha vissuta questa fase, l'ha vissuta in maniera molto naturale. Poi comunque l'ho portato con me, accertandomi prima dell'ambiente, tutto l'ho portato con me quando ho fatto la radioterapia una volta, e lui si è divertito come un matto perché ha trovato un ambiente comunque socievole, l'hanno fatto divertire. Che, dottoressa Trinci, i bambini hanno qualche cosa in più, qualche cosa in meno rispetto agli adulti, che li fa così approcciare alla vita in un modo che a volte è quasi straordinario. Essere e benessere. Eccoci qua, siamo tornati insieme, siamo con Laura, ci sta raccontando come ha detto al suo bambino che doveva affrontare un percorso lungo, difficile, in cui il suo corpo si sarebbe in qualche modo anche trasformato, perdite dei capelli e poi la ricostruzione. Laura. Esatto, ma io credo che lui non l'abbia vissuto come un percorso difficile, nel senso che io lo tenevo aggiornato alle sue domande. E hai avuto anche da lui sicuramente un sostegno. Dottoressa Trinci, io vorrei un commento alla storia di Laura. Molti di voi mi stanno scrivendo ringraziandomi dell'intervento di Laura, perché dà a tante coppie, a tanti genitori la possibilità un pochino di prendere una direzione, dire o non dire. Dottoressa Trinci. Anch'io ringrazio Laura di questa esperienza e anche davvero di come è riuscita a sostenere il bambino in quello che è stato un percorso credo veramente straziante, no? Perché poi si racconta, ma tutto quello che una donna vive dentro, con le trasformazioni del corpo, la paura di morire, di perdere i bambini, credo che queste siano veramente delle esperienze strazianti. Quello che mi sembra che davvero sia stato fortunato è come è riuscita a far partecipare il bambino. Sì. Perché il bambino se partecipa, io ho visto per esempio quando ci fu quella cosa terribile alla scuola di Beslan, che molti bambini nelle scuole materne proprio accesero una candelina in ricordo di quei bambini. Ecco, la felicità dei bambini di poter essere anche loro partecipi. Oppure ho visto anche delle cose terribili come la perdita da parte di una bambina di 3 anni della propria madre, con quale dignità e con quale veramente forza e coraggio ha partecipato ai funerali della mamma, sostenuta dal babbo, sostenuta dai bambini della scuola materna che tutti insieme avevano fatto un grande disegno per accompagnare la mamma. Questo cosa vuol dire? Sia chiaro, mica toglie il dolore. Certo, la assolutamente perdita, no. Però dà un'idea che se il bambino partecipa, se può, utilizzando una frase di Kafka, volare all'ombra del vero, quindi senza bruciarsi con le verità, ecco, lì probabilmente c'è la bravura di Laura. E giustamente però Laura dice un'altra cosa importantissima, che è stata a sua volta sostenuta dal babbo. Certo. Quindi c'è una famiglia. È un lavoro di squadra, dottoressa Trinci. E c'è un che permette, esatto, al bambino di fare domande. Grazie Laura. Niente, è stato un piacere. Quando uno si separa poi si sposa con un altro. Chi era quello lì? Se fai una scenata davanti ad Andrea, per te è finita. Mi servono 400 euro. 400 euro? In Italia siete circa 4 milioni, di cui 900.000 stanno molto peggio di te. Ma sai quanto mi rimane mentre ammuto, assegno di mantenimento, il dentista per Andrea, gli extra? Ma sai quanto? Mi manca tutto quello che avevo prima. A te manca l'idea della famiglia, tipo quella della pubblicità, l'hai capito? Sarò sempre tuo padre, il titolo della fiction che andrà in onda martedì e mercoledì prossimo su Rai 1, una fiction che racconta le fatiche di un padre separato. E in linea con noi abbiamo Giuseppe Fiorello, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sarò sempre tuo padre, già il titolo contiene una grande verità secondo me, perché non si smette mai di essere genitori, ma quello dei padri separati è un tema molto difficile, molto spesso ignorato da chi non è protagonista di una realtà simile, e la fiction di cui lei è interprete inviterà tutti a riflettere su questo problema attuale e doloroso. Sì, è così, insomma, noi con questo film, con queste due puntate, speriamo di poter, come dire, di poter frenare un minimo questo forte contrasto che c'è tra famiglia, figli, genitori, e separazione violente e improvvise. Quindi speriamo di poter frenare anche un atteggiamento sempre più violento nei confronti del padre e molto spesso anche delle madri, perché sappiamo bene che ci sono molte mamme, molte madri che a un certo punto, per una separazione, per un matrimonio andato male, vengono magari molto spesso abbandonate, lasciate a se stesse. Noi in questa fiction ci siamo soffermati su un punto di vista che è quello di un padre. Esatto, di un papà che subisce questa separazione violenta e improvvisa e non riesce più a sostenerla in tutti i sensi, psicologicamente, moralmente, economicamente soprattutto. Dal padre del film al padre vero, lei dice la verità? Ha domande dei suoi figli che la mettono un po' in crisi? Ma dipende dalle domande, dipende da cosa mi chiedono. Cerco sempre di dire la verità, quello è il mio obiettivo, cerco sempre di dire la verità. Non sempre si può, ma cerco di farlo, insomma. Io non vivo una situazione di separazione in questo momento, certo mi auguro che non mi accada mai. Certo. Perché quello che ho provato per finzione, recitando il ruolo, è già stato abbastanza per capire più da vicino qual è il dolore di un padre che non riesce a vedere i propri figli quando decide, quando vuole lui. Perché la cosa grave che viene tolta ai papà in questo momento è proprio il tempo, è il tempo che viene tolto, il tempo da dedicare ai loro figli. E molto spesso accade che quel poco tempo che rimane da dedicare nell'arco di un weekend si diventa amichetti di giochi, non si è più genitori, perché in quel poco tempo non si ha neanche la volontà di poterli in qualche modo, di potergli negare qualcosa, di potergli dire un no, di potergli fare quel rimprovero che magari rientra nella sfera educativa di un genitore, perché in quelle poche ore che sta con te che puoi fare? Ci devi solo giocare e devi solo annuire a quello che lui chiede, a quello che lui fa, e questo diventa un genitore non completo e fa molto male. E fa molto male al genitore e soprattutto al figlio. Allora, sarò sempre tuo padre, la seguiremo martedì e mercoledì prossimi su Rai 1. Grazie a Beppe Fiorello, buona giornata. Buona giornata. Abbiamo Daniela che ci chiama da Varese, abbiamo veramente pochi minuti di tempo. Daniela, buongiorno. Buongiorno, faccio una domanda breve alla dottoressa. Anche noi viviamo una situazione di difficoltà perché la nostra figlia maggiore ha una grave disabilità. E agli altri figli, quando ci fanno delle domande, a parte che è difficile per noi spiegarlo il problema a livello medico perché è complicato, anche a livello di emozioni, ma noi quando ci chiedono quando parla, quando camminerà, noi diciamo ai suoi tempi, parlerà, camminerà, e così loro rispondono agli altri bambini e ad altre persone che ci fanno delle domande sulla bambina. Sì. Ma sentendo voi la trasmissione oggi, forse è venuto qualche dubbio. Daniela, io penso che la sua domanda, una riflessione rapida la dottoressa Trinci può dargliela, ma potete anche scrivervi mandandoci una mail a esserebenessere@radio24.it. Penso che il tema di Daniela sia un po' complesso, ma dottoressa Trinci. Intanto, se manda una mail, rispondo volentieri. Sì. Se me la girate in maniera certo, più approfondita. Lo facciamo in questi casi qui credo che sia molto utile farsi dar mano anche dagli operatori, la bambina sarà forse seguita da un centro o dal pediatra, che può miscelare, diciamo, delle cose tecniche e quindi sostenere un po' i genitori in difficoltà sui piani affettivi, perché è difficile, certo, dire a un altro bambino non camminerà, non parlerà. Ecco, allora, sì, rimaniamo, uno scambio di mail, essere benessere@radio24.it, vi dico la verità, lo passeremo alla dottoressa Trinci. Radio 24, la passione si sente. Essere e benessere.